138. Salsa di peperoni. Prendete peperoni grossi e verdi, apriteli, netateli dai semi e tagliateli per il lungo in 4 o 5 strisce. Date loro una piccola scottatura in padella con poco olio per poterli sbucciare. Dopo sbucciati, mettete al fuoco uno spicchio d'aglio tritato fine con olio e burro. E quando sarà rosolato, gettatevi i peperoni, salateli, lasciateli tirare un poco il sapore ed aggiungete sugo di pomodoro. Non cuoceteli troppo, perché perderebbero il loro piccante, che è quello che dà grazia, e serviteli con l'esso.